L'ospite di oggi è Denise Monas. Benvenuta, Denise. Buonasera a tutti. Allora, come già anticipato, tu oggi sei qui a svelarci i segreti non solo del teatro, di tutta la filosofia che ci sta dietro, ma anche le attività teatrali in italiano che si svolgono qui a Bruxelles. Da quanti anni è che ti occupi di teatro? Quest'anno facciamo 12 anni che mi occupo di teatro come compagnia teatrale qui a Bruxelles. In Ma ecco realtà è una vita che faccio teatro. appunto, quindi tu hai il sacro fuoco del teatro dentro. Sì, si Sì. può E dire così. hai fatto tutta la trafila, cioè da... Sono passata attraverso tutti i livelli. Prima ho iniziato teatro facendolo a scuola e poi successivamente ho studiato e poi sono riuscita ad entrare in delle compagnie teatrali a Torino. Ho lavorato lì, non necessariamente sempre come attrice, anzi molto spesso come dietro le quinte. E poi ho fatto qualcosina qui a Bruxelles, a Lussemburgo, e finalmente mi sono decisa a lavorare con i bambini perché, avendo io due figlie, era difficile continuare questa passione teatrale, escludendo la mia famiglia. Anche Quindi. perché la scuola è il parcheggio settimanale, nel fine settimana bisogna parcheggiare i figli da qualche parte, quindi... Sì, ma io soprattutto a ridosso degli spettacoli, queste prove molto intense che ti prendono tantissimo tempo e che quindi è difficile separarsi per dei periodi così lunghi dei figli piccoli. Diciamo che qui a Bruxelles, diciamo, il teatro italiano è una piccola comunità, vi scambiate gli attori, Ci molti scambiamo partecipanti. gli attori, ci scambiamo i tecnici e penso che siamo abbastanza coesi tra di noi, non ci sia rivalità e oltretutto cerchiamo di fare cose abbastanza diverse così che interessiamo un po' tutto il pubblico italiano. Infatti, quindi c'è anche un'ampia scelta. E quante compagnie sono attive qui a Bruxelles? Di Almeno teatro 5, italiano? sì. 5. Quindi di Di fatto fatto quasi una volta al mese si può andare a teatro a vedere uno si spettacolo. potrebbe se ci organizzassimo un po' meglio, però purtroppo siamo un po' lontani da questo punto di vista, però sì, effettivamente ognuna di queste compagnie riesce a mettere in scena almeno un paio di spettacoli l'anno. L'anno, quindi devo dire che è molto vivo il teatro italiano qua a Bruxelles. Parliamo allora della tua piccola compagnia. Allora, come hai deciso veramente, perché tenere insieme tante persone, tanti bambini con le famiglie che seguono non è una cosa facile. Come ci sei riuscita? Non lo so ancora come ci sono riuscita. È una sfida ogni volta che si chiude uno spettacolo per poi ripensarne uno nuovo. In realtà, tutto è nato da una prova. Abbiamo voluto provare a mettere in scena un primo spettacolo. Sono stata aiutata effettivamente da parecchi genitori che si sono appassionati a questa cosa, e poi ogni anno ci sono dei cambi, quindi ogni anno si chiude uno spettacolo, i ragazzi crescono e spesso escono dalla compagnia, purtroppo. Alcuni rimangono nonostante siano ormai all'università, e Gli impegni, quindi questo è bellissimo loro hanno il rivederli. sacro fuoco. Sì, è bellissimo. E ce ne sono parecchi, anche gente che magari non riesce più a partecipare proprio allo spettacolo, ma vuole comunque aiutare dietro le quinte, non da attori, ma da Ah, tecnici. quindi va bene, quindi è veramente un'attività. Allora, passiamo adesso alla domanda fatidica. Allora, il teatro è diviso in più correnti. Comunque il teatro, quello diciamo occidentale, si basa su due pilastri filosofici. Quello di Stanislavski, che è quello che ha creato la recitazione moderna, e quello di Grotowski, che era un ex allievo di Stanislavski, che a un certo punto ha detto: ma cos'è sta roba qua? Non va bene, bisogna rifare tutto. E quindi ti volevo chiedere una cosa. Secondo alcuni critici, e la fortuna di Stanislavski è stata quella di mettere per iscritto le sue tecniche, altrimenti non sarebbe rimasto niente di lui, perché il teatro non è immagine, il teatro è uno spettacolo dal vivo che una volta passato finisce. Quindi la fortuna di Stanislavski è stata quella, avere l'idea di scrivere le sue tecniche per poi essere tramandate e insegnate. E ti voglio chiedere una cosa, siccome il metodo Stanislavski è quello più diffuso qui in Occidente, E lo trovi complicato da insegnare ai bambini? Oppure no? Perché spiegaci in poche parole come funziona questo metodo. Con i bambini? Esatto. Con i bambini penso che sia la cosa più semplice, perché basta metterli davanti a uno specchio con dei trucchi o a uno scatolone pieno di vestiti e loro si creano in automatico il loro personaggio. E anzi, io trovo che con i bambini è ancora più semplice, a loro riesce facile immedesimarsi nel personaggio. È un po' più complesso con gli adolescenti, che perdono questa naturalezza e devono un po' ricostruirsi. Però noi cerchiamo di far passare il messaggio soprattutto attraverso la visualizzazione. Si chiede loro di immaginarsi e rimaginarsi e rivedersi a più riprese come entrare in scena, come farebbe il loro personaggio prima di entrare sulla scena, durante la scena e cosa farebbe dopo, uscendo in attesa di dover poi rientrare. Questo è proprio Stanislavski. Sì. Vivere il personaggio. Sì, fino in fondo, sì, effettivamente sì. Io però dico, sono più grotowskiano. Ma ci stiamo provando. Grotowski, secondo me, lui è quello che diceva, il personaggio non esiste. L'unica parte scritta è il personaggio, è quella scritta, tutto il resto non c'è. Allora, è l'attore che deve far diventare il personaggio lui stesso. E infatti, secondo me, uno degli attori italiani che più, senza mai ammetterlo apertamente, ma che è più filosoficamente grotowskiano è Marcello Mastroianni, che lui ha sempre detto: io non ho mai sofferto per il personaggio, per imparare il personaggio, entrare nel personaggio, io lo faccio per divertirmi. E quindi lui, forse appunto senza saperlo, era il più grotowskiano degli attori italiani. Va bene. E un'ultima cosa, è vero o no? Il teatro è una filosofia? Sì, e serve per il resto della vita. Tutta la vita? Tutta. Piccola pausa musicale, ci risentiamo tra poco. Ritorniamo in studio con la nostra ospite Denis Monas. E la canzone che avete appena ascoltato è introduttiva per l'argomento che tratteremo adesso, che sarebbe la commedia dell'arte, che è la forma di teatro di maggior successo che l'Italia abbia mai esportato. La commedia dell'arte ha avuto dei grandissimi meriti. Non solo i Frizzi e i Lazzi, quello che è stato tramandato in generale soprattutto all'estero, dagli inglesi e dai francesi, ma la commedia dell'arte, se si volesse rappresentare, si potrebbe rappresentare col biglietto d'ingresso. Cioè, la commedia dell'arte è stato il primo spettacolo di professionisti che facevano pagare un biglietto per entrare per poter essere vista. E non solo, è stata le prime compagnie che hanno introdotto nei ruoli femminili le donne. Fino a quel momento, anzi fino a molti secoli dopo, erano gli uomini che interpretavano le donne. Nella commedia dell'arte le donne interpretavano le donne, quindi è stata anche molto emancipativa come forma di spettacolo. E praticamente la commedia dell'arte noi dovremmo avercela nel sangue, è una cosa nostra. Penso. Tu la utilizzi durante i laboratori di teatro nella tua compagnia? No, siamo ancora riusciti a metterlo in scena. Non gli fai fare Frizzi, Lazzi, salti? No, abbiamo soltanto fatto uno spettacolo sulla storia dell'arte, dove abbiamo effettivamente affrontato varie tappe e avevamo anche in questo caso studiato una parte della commedia dell'arte, avevamo parlato di questa. E sì, in quel momento avevamo portato in scena per ogni periodo storico alcuni pezzi importanti. E che cosa hai scelto per la commedia dell'arte? Avevamo scelto un paragone tra Goldoni e Defoe. Ah, Goldoni, quindi diciamo la commedia dell'arte rinnovata, senza sì. Le maschere, senza... No. Senza le maschere, sì, però riprendendo un po' la parte romana, diciamo, quindi la parte storica. Benissimo. E come, diciamo, il nostro maggiore esponente della commedia dell'arte moderna, quello che l'ha ricostruita, l'ha ricercata, ricostruita, riallestita e riportata in scena, è stato Dario Fo, e per questo ha avuto il premio Nobel, proprio per questa sua ricerca sul teatro. E praticamente, dovendo reinterpretare. Lui ha modernizzato la commedia dell'arte, che aveva pochissime tracce, lasciava pochissime tracce. Tra l'altro, lui, il primo documento che risale, che fa riferimento alla commedia dell'arte, è la formazione di una compagnia. Cioè, praticamente non c'erano, diciamo, tracce scritte di nessun spettacolo. No, perché lavoravano sui brogliacci. Lavoravano su questo canovaccio e poi improvvisavano. E questa cosa è andata avanti per 200 anni. Poi, chiaro, dopo 200 anni era difficile inventare qualcosa di nuovo. E quindi il grande Dario Fo, che io trovo veramente geniale nelle sue, non solo rappresentazioni, ma proprio come intellettuale, e ha avuto questo grande merito di riportarla in scena e soprattutto di riportarla in scena in maniera reinterpretata e riattivata, tanto che è riuscito a mischiare il suo teatro politico con la commedia dell'arte, ha trasformato pezzi che erano diciamo di parodia o di satira in cose modernissime, contro il potere, contro la Chiesa, la Chiesa intesa come istituzione, istituzione politica, non religiosa. E dimmi una cosa, praticamente i tuoi spettacoli variano tra opere per bambini, spettacoli un pochino più impegnativi come ricostruire la storia e l'evoluzione del teatro durante i secoli, e anche diciamo, la rappresentazione di film, perché io ho visto qualcosa e tu hai riportato in scena a teatro dei film. Ma diciamo che cerchiamo di sperimentare tutta la forma di immagine di una storia, quindi sia se abbiamo modo di ispirarci anche a un film, perché no? Però diciamo che un'opera letteraria dal quale è stato tratto un film, che poi un film per bambini in genere, visto che la storia... Non solo, adesso stiamo per esempio portando in scena Notre-Dame de Paris e in realtà mi rendo conto che è molto più complesso di quanto mi immaginavo e ci stiamo ispirando per questa storia parecchio ai Miserabili, il musical che hanno fatto recentemente, però in film. Beh, d'altra parte, per esempio, io pensavo adesso a Mary Poppins. Sì. Mary Poppins nasce da un romanzo, sì. Poi è stato fatto il film da Walt Disney, che l'ha reso, diciamo, estremamente realistico nella sua spettacolarità. E tu hai cercato di riprodurre, diciamo, una via di mezzo tra quello che i bambini conoscevano attraverso le immagini del film e il romanzo. E quindi, diciamo, quello spettacolo era un musical, insieme era uno spettacolo teatrale, e quindi aveva moltissime componenti che... Ma nel nostro spettacoli cerchiamo sempre di riprendere la storia originale e adattarla però al gusto dei bambini, perché non sempre le storie originali finiscono bene e non sempre piacciono ai bambini. E quindi cerchiamo, anche quando abbiamo fatto i Tre Porcellini, per esempio, abbiamo nella storia i tre porcellini venivano effettivamente, i due porcellini venivano mangiati dal lupo. Questo è anche nella storia di Mary Poppins, quando abbiamo messo in scena, così come quella di Peter Pan, noi abbiamo seguito il filone originale, cercando però di cogliere quei spunti interessanti che invece attraverso i film della Walt Disney erano più accattivanti, diciamo, per i bambini. Sì, fatti per loro. Sì. Infatti il grande intuito di Walt Disney è stato proprio quello, di prendere la storia originale e senza nessun problema modificarla, cosa che magari in Europa sarebbe molto più complicato, convincere un autore a permettere a un altro di modificare quasi la struttura della storia, di farlo e creare poi delle opere che sono indubbiamente eccezionali, cioè funzionano perfettamente. Fabrizio è anche condendola con delle musiche eccezionali. Esatto. Sì. Infatti il senso dello spettacolo, soprattutto di Walt Disney e della Walt Disney, è incredibile, meriterebbe uno studio approfondito. Benissimo, e parliamo delle opere che tu hai fatto. Sì. Soprattutto questi adattamenti, sei tu che te ne occupi degli adattamenti? Sì, io riscrivo completamente il testo. E quanto tempo ci vuole per riscrivere un testo? Dipende quanto mi ispira il testo. Ah, ce ne sono alcuni noiosi. Diciamo che ci sono dei periodi che è un po' più complesso scrivere che in altri. Quello che è appassionante è conoscere i propri bimbi, quelli che vengono ai corsi di teatro e cercare di adattare su di loro il personaggio che quindi che già più... l'adattamento avviene in fase di scrittura. Sì, assolutamente. Rimanendo comunque piuttosto fedeli alla storia originale, eh? Ci tengo veramente, perché per esempio, adesso mi viene in mente quest'ultimo perché ci stiamo lavorando ancora sul testo, il nostro testo non ha niente a che vedere con il film, piuttosto che l'interpretazione teatrale di Cocciante, pur rimanendo un musical. E le musiche sono originali? Sono, o? Sì, assolutamente. Abbiamo State un nostro scritte da voi? compositore che noi molto semplicemente chiamiamo Geppi, ma è Giuseppe Amoruso. È il maestro. È un maestro, sì. E abbiamo anche degli insegnanti di canto, Lucia Scoca, e adesso si stanno piano piano ampliando, perché in realtà di genitori che sono comunque interessati all'arte che passa attraverso il teatro o meno, ce ne sono veramente tantissimi. Ah, quindi insomma siete in un'evoluzione ancora positiva. Sì, penso di sì. Attualmente siamo 44 tecnici, come i 44 gatti, su una compagnia di circa una sessantina, settantina di bambini. Quindi di attori. Di bambini, attori, ragazzi, quindi tra i 4 e i 19, 21 anni. E poi abbiamo una decina di attori adulti. Poi musicisti, compositori. Musicisti, compositori, questi sono questi famosi 44 gatti. Ma, e quindi sono, diciamo, sono colossi, sono opere broadwayane, non tanto teatro sperimentale di periferia, teatro sì, off. Speriamo di mettere in scena qualcosa che ci permetta di ripagare il teatro soprattutto. Perché, diciamolo, gli incassi sono devoluti in beneficenza. Assolutamente sì, no, noi ci riusciamo a pagare le spese e poi quello che riusciamo a in margine a tenere lo offriamo ad alcune compagnie associazioni di beneficenza. Ah, e di che cosa si occupano queste associazioni? Le vostre preferite, quelle a cui date? L'ultima che al quale ci siamo, sono un po' commossa, mi scusi, ma è una beneficenza in onore a una delle nostre piccole canaglie che purtroppo ci ha lasciati a causa di un incidente stradale. E, quindi è stata fatta una fondazione? È stata fatta una fondazione per degli studi universitari per altri due ragazzi della stessa università che frequentava Noemi, e quindi gli ultimi diciamo contributi sono stati dati a lei. Ah, molto molto interessante. Piccola pausa, ci risentiamo più tardi. Una forma di spettacolo veramente italiana è la commedia dell'arte. Nata nel Medioevo, si svolgeva nelle strade e nelle piazze. Ogni città parlava una lingua diversa. Gli attori si spostavano da una all'altra fino ad arrivare nelle terre più lontane dell'attuale Francia, Germania, Belgio. Queste compagnie di teatro avevano elaborato una lingua basata sui suoni, che venivano interpretati per permettere al pubblico di comprendere lo svolgimento della storia. Il linguaggio era composto da rumori onomatopeici, cioè suoni che riproducevano il loro significato. Gli spettacoli erano basati sullo scherzo, sui salti, le capriole, i ribaltamenti. Un tipo di teatro che per 700 anni è rimasto inalterato. Poi è stato dimenticato fino a quando gli artisti di strada lo hanno nuovamente riproposto. C'è una compagnia italiana che in questo momento sta realizzando un tour mondiale per far conoscere la commedia dell'arte nel mondo. Il suo nome è I giullari di Roccafritta. Stiamo attivando il collegamento telefonico con la compagnia teatrale. Sono famosissimi. Sono invitati ad esibirsi nei migliori teatri, nelle più importanti capitali. Noi telefoniamo al capo compagnia che ha il suo cellulare in tasca. Quando sente vibrare il telefonino, preme il bottone di risposta così che noi possiamo sentire quello che accade. Oggi si stanno esibendo per la prima volta nella storia in Tibet, nei pressi del monastero di Drepung, il più grande e importante del paese. Questo spettacolo di commedia dell'arte è organizzato per i monaci tibetani accorsi da tutto il mondo per vederlo. Un evento straordinario, per la prima volta appunto in Tibet. Il Dalai Lama lo segue in videoconferenza dal suo esilio. La commedia dell'arte è quale forma universale di spettacolo e di comunicazione. Adesso stiamo componendo un numero. Dobbiamo parlare a bassa voce per non disturbare lo spettacolo. Proviamo a raggiungerli. Ecco, siamo collegati. Amico, te prene lo recite, taglia il lobo, lo frige, lo magna. Gnam! E allora, me prene il camelo, me te vado nel deserto, te sotero de sabbia. Me ritorno a casa, te frigo l'altro lobo dell'orecio e me lo magno. Gnam, gnagna. Se ancora non te basti, mi ritorno nel deserto, te preno de sotto la sabbia senza i lobi dei oreci e te parlo, che tu non mi senti. Gnam. Ah sì? E allora mi tem bla bla bla va va va fa cu cu cu tu gne gne gne gne gne. È un grande successo. I monaci tibetani lo apprezzano, lo comprendono. Una forma di spettacolo antica di 1000 anni è ancora attuale, viva. Un grandissimo ringraziamento deve andare alla compagnia teatrale dei Giullari di Roccafritta, ambasciatore della cultura italiana nel mondo. Complimenti, complimenti. Ma ora torniamo in studio. Ancora un successo della commedia dell'arte, finalmente riportata, riproposta dopo Dario Fo in giro per il mondo. E questi giullari di Roccafritta io non ne ho mai sentito parlare, ma evidentemente sono abbastanza famosi perché riescono a esibirsi ovunque. Spero di averli ancora in studio, Daniele, cosa pensi? Ma secondo me qualche collegamento telefonico a tradimento si potrebbe continuare a fare. Mi interessa. È tornata a trovarci la dottoressa Controversia, sociologa specializzata in contrasti evolutivi dei generi umani. Benvenuta, dottoressa! Sono onorata dell'invito che mi avete fatto. È un dovere per me essere qui tra voi quando la scienza può essere divulgata attraverso un mezzo di comunicazione di massa e l'umanità intera giovarne. Pertanto non potevo rifiutare l'invito. Lo faccio per la scienza e per l'umanità. Speriamo che tra le motivazioni elevate che ha ricordato possiamo inserire anche gli ascoltatori del nostro programma. Se fanno parte dell'umanità e rivestono un interesse specifico scientifico per la sociologia, possiamo includerli tra le giustificazioni di questa mia partecipazione. Quindi la risposta è sì, possiamo. Ci fa tanto piacere saperlo. Nella sua partecipazione precedente ci aveva spiegato cosa erano i contrasti evolutivi dei generi umani. Prima di approfondirne gli aspetti, potrebbe riassumere velocemente cosa sono? I contrasti evolutivi dei generi umani non sono altro che i contrasti nati tra il genere umano femminile e il genere umanoide maschile, dovuti a una diversa curva di evoluzioni tra le due specie. Lei teorizza che la distanza evolutiva tra gli uomini e le donne abbia creato due generi umani separati, uno appunto maschile e uno femminile. Esatto, bravo, merita lo zuccherino, una gratificazione. Ha capito, sta facendo grandi progressi, per questo di questo passo tra qualche millennio potrà considerarsi uscito dalla fase Tarzan. Ricordiamo agli ascoltatori che la fase Tarzan sarebbe lo stato evolutivo attuale del genere maschile. Mi sorprende, ne ha azzeccate due di fila, allora c'è una speranza. È un argomento che ci interessa molto. Parliamo della donna, invece. La donna si è evoluta in modo completo, totale, radicale, superando gli schemi compressi nella natura animale. Cioè? La sua evoluzione non è stata solo lineare, ma radicale. Non è stata indirizzata al moderno, ma al postmoderno. Non è stata temporale, ma trascendentale. Si è avvicinata al metafisico, al sovrannaturale. Ella ha raggiunto la fase multitasking. Dottoressa, ci sembra un po' esagerato. Ci faccia capire l'interazione tra una donna di questa natura e l'uomo Tarzan. L'interazione è scarsa, non a causa della donna, per carità. È l'uomo che non ci arriva, non capisce, sceglie modelli sbagliati. Non capiamo, ci spieghi meglio? Figuriamoci, se poteva capire quello che dicevo. Spiegherò nella maniera più semplice possibile, in modo che anche lei possa comprendere. Grazie, la diffusione scientifica le sarà grata. Conosce l'effetto Pigmalione? Mai sentito. Non ne dubitavo. L'effetto Pigmalione è strettamente legato all'apprendimento e all'evoluzione dell'individuo. Abbiamo un maestro, un Pigmalione appunto, che attraverso insegnamenti ed esempi pratici insegna al giovane l'esperienza, la conoscenza, il sapere. Sì, fino a qui mi sembra sia tutto molto ovvio. Sarebbe ovvio se non ci trovassimo a che fare con un uomo Tarzan. Cosa fa di tanto sbagliato l'uomo Tarzan? Esce dagli schemi e sceglie sistematicamente il Pigmalione sbagliato. Si faccia capire. Anziché seguire gli insegnamenti della donna postmoderna, metafisica, trascendentale, multitasking, lui preferisce la compagnia dei suoi affini. Altri uomini Tarzan? No, magari. Sarebbe troppo facile. Lui perde il suo tempo con i suoi amici. La scimmietta, il leone, l'elefante. Ne apprende gli insegnamenti, le conoscenze, l'educazione. Intende dire che l'uomo Tarzan, passando il suo tempo con gli amici, finisce per comportarsi come loro? Per essere socialmente accettato dal gruppo limita? Esattamente, così lui spulcia la scimmietta, si rotola nella polvere, segna il territorio, come imparato dai pigmalioni sbagliati, invece di seguire il modello multitasking, quello che lo porterebbe rapidamente a uno stato evolutivo avanzato, lui perde il suo tempo con gli amici in attività inutili. Quindi alla base di tutto c'è un modello sbagliato. Quando l'uomo Tarzan torna a casa, la Madonna multitasking lo interroga, lo incalza, lo perseguita per fargli prendere coscienza della sua inutilità. A quel punto l'uomo Tarzan capisce. No, va alla toilette. E cosa fa un uomo alla toilette? Non lo so. Lo dica, non si vergogni. Cosa fa un uomo alla toilette? Ma non lo so, lo dica lei. Ma non sia timido, lo dica. Fa la punta alle matite? No, fugge. Da dentro la toilette? Fugge dalla conversazione, fugge dal contraddittorio, fugge dall'interrogatorio, fugge dall'inquisizione. Cioè, vabbè, sì, fugge, va bene. Fugge dalle responsabilità, fugge dagli obblighi, fugge dagli impegni, fugge dai doveri, dai vincoli, dalla realtà, fugge dall'oggettività, fugge dalla maturità, fugge dall'età adulta, fugge dalla famiglia, fugge dai figli, fugge dalla donna, fugge dalla socialità, fugge dal confronto, dal raffronto, fugge dal dibattito, fugge dalla verità, fugge dall'obiettività, fugge dal destino, fugge dal fato, fugge dall'inevitabile, abbiamo capito. La salutiamo, dottoressa Torni, presto a trovarci, ordinato, fugge da se stesso e continua. Ritorniamo in studio con Denise Monas, animatrice della compagnia delle piccole canaglie qui a Bruxelles. E ci vuoi parlare innanzitutto, se un bambino o una famiglia volesse portare il bambino da voi per fare teatro, dove vi può rintracciare? Beh, noi abbiamo un sito internet www.lepiccolecanaglie.eu e lì ci sono la stragrande maggioranza delle informazioni, altrimenti potrebbe scrivere a denise.lepiccolecanaglie.eu. Ah, e avete anche una pagina Facebook dove vedere? Sì, abbiamo anche la pagina Facebook delle piccole canaglie. Quindi è facile rintracciarvi. Sì, e eventualmente accettate anche bambini stranieri, non necessariamente italiani. Abbiamo anche bambini stranieri. Diciamo che purtroppo per il momento noi lavoriamo stragrande maggioranza in italiano, quindi comunque dovrebbero avere una minima conoscenza dell'italiano. Beh, comunque può essere una occasione per praticarlo. Abbiamo per esempio 3-4 ragazzi che si occupano dietro le scene e sono completamente stranieri, quindi senza alcuna conoscenza dell'italiano, e se la cavano molto bene. Ah, magari si risparmiano anche le parolacce e le sgridate. Quelle purtroppo riescono a capiscono, non solo, anche imparare molto velocemente. Una domanda, quanto tempo impieghi a preparare uno spettacolo dalla stesura del testo alla prima, alla messa in scena? Un anno e mezzo circa. Un anno e mezzo, sì. Quindi dalla stesura del testo. Quindi tu sei avanti di due spettacoli, stai già scrivendo quello dei prossimi 3 anni o no? No. Del 2021. Sono avanti di due spettacoli, quindi stiamo ancora finalizzando il primo e poi dobbiamo affrontare il prossimo. Ho capito, sì. Quindi parliamo di questo che state allestendo adesso, perché mi hai parlato, accennato prima, che sarà un allestimento stile I Miserabili. Sì, però sulla storia, basata sulla storia di Notre Dame de Paris. E come hai coniugato le due tristissime storie? Sì, allora, fondamentalmente è dovuto alla questione musical. Ci è piaciuto molto come sono riusciti a mettere in scena il film dei Miserabili, partendo dalle voci, quindi dalla canzone cantata sulla quale è stata poi adattata l'orchestra, quindi cercheremo anche noi di fare più o meno questa volta delle musiche simili, però purtroppo siamo legati anche noi alla registrazione, quindi non so se ancora quest'anno riusciamo. Una domanda, ci saranno anche parti parlate o sarà completamente cantato? No, ci sono anche parti parlate, però purtroppo come tutti i musical il recitato è un po' penalizzato. Detto questo però è una formazione più completa per l'attore, perché c'è musica, c'è canto, c'è danza, c'è coreografia e recitazione. Hai già la data per la messa in scena? Sì, siamo in scena il 15, 16, 14, 15 e 16 probabilmente, quindi 3 spettacoli. Adesso stiamo ancora decidendo se farne 2 in un giorno o venerdì, sabato e domenica dicembre. Di dicembre di quest'anno, 2018, del 2018. Sì. Quindi insomma avete ancora mesi davanti e immagino che lo spettacolo non sia nemmeno... No, abbiamo iniziato le prove abbiamo fatto la lettura del testo nel mese di febbraio, adesso stiamo affrontando i primi incontri. E vale anche per te, nella tua esperienza, la regola generale del teatro, che se la prova generale è un disastro, fantastica. La prima è fantastica? Funziona anche da voi? Funziona regolarmente anche da noi. Non c'è una volta che siamo riusciti a fare una prova generale degna. Finiamo regolarmente con grossi litigi e profonda delusione. Però io rimango positiva, visto l'esperienza di tutti questi anni, e cerco di incoraggiare i nuovi. Però ho avuto genitori che hanno tirato via i bambini alla prova generale dicendo sarà una catastrofe. Ah, e poi dopo saranno rimasti sorpresi dal successo invece della prima, anche perché, perché in genere, c'è un miracolo alla fine. Eh sì, la tensione sale, quindi, e poi soprattutto il pubblico è sempre ben disposto quando vedi i bambini in scena. In genere abbiamo un pubblico molto buono, però quindi quest'anno vorremmo coinvolgerlo un po' di più, vorremmo riuscire a trovare dei mezzi per riuscire a coinvolgere maggiormente il pubblico, sì. Benissimo, allora abbiamo dato le coordinate per come rintracciare le piccole canaglie, e io direi musica e poi gran finale. Ora, dopo tanto parlare, tenteremo di mettere in pratica il metodo Stanislavski e di immedesimarci nei personaggi, annullando completamente la nostra personalità. Una vera e propria lezione di laboratorio teatrale per la prima volta tentata in radio qui a Barbecue Radio Alma. Ci guiderà in questo esperimento la nostra ospite Denise, regista di teatro. A lei la parola, maestra! Io vi darò delle indicazioni che descriveranno un luogo e gli elementi che lo compongono. Da qui voi interpretando gli elementi che vi ho dato, svilupperete l'azione liberamente, rimanendo coerenti con il personaggio che state interpretando. Siamo in un bosco nel nord Europa. Quale? Zitto. Era tanto per sapere, magari aiutava. E l'alba è umida, la rugiada bagna il terreno, le piante. Gli animali si risvegliano, vi sono un salice e un fungo. Il salice è ricco di foglie e germogli residi lucidi dalla rugiada, anche il fungo è ricoperto dalla rugiada, che gli serve per crescere appena. La temperatura e il sole illuminerà sufficientemente il bosco. Un'alce, appena svegliata, si avvicina. Daniele sarà l'alce e Fabrizio il fungo. Un fungo? Concentratevi sul personaggio. Cosa pensa? Come agisce? Come reagisce? Concentratevi. Sentite l'umidità dell'aria? Insomma, io un pochino sì. Davvero la senti? Sentite la rugiada su di voi? Insomma, io un po' la sento. Ma cosa senti tu? Sentite il profumo del bosco? Insomma, io un po' lo sento. Ma non ci credo, regista, non gli dia retta. Concentratevi, cosa succede adesso? Regista, sono il salice, l'alce mi annusa. Bene, molto bene, stai entrando nel personaggio, tu stai immedesimando. E tu, fungo, cosa vedi? Io niente. Male, molto male, concentrati. Tu ora sei il fungo, devi pensare come un fungo, vedere come un fungo, agire come un fungo. Regista, sono il salice, l'alce mi alita addosso. Bravo salice, si sta creando l'azione. Regista, sono il fungo, sono dietro l'alce. Bene, incomincia ad entrare nella parte, bravo. Regista, sono il salice, l'alce mi morde. Bene, ecco l'azione, ecco la crescita. Tu, fungo, cosa vedi? Da qui non molto. Vedo l'alce che muove la coda, scodinzola. Non è sufficiente. Se manca l'azione è perché non sei ancora entrato nel personaggio. Regista, sono il salice, l'alce mi morde. Bravo, salice! Continua così. Regista, sono il fungo. Ora l'alce non muove più la coda, la tiene ferma in alto. Manca l'azione. Concentrati. Cosa succederà dopo? Ma come si concentra un fungo? Regista, sono il salice, l'alce mi morde. Molto bene. Regista, sono il fungo, l'alce mi sta facendo la pipì addosso. Bravo fungo, ecco l'azione, sei entrato nel personaggio. Regista, sono il salice, l'alce mi morde. Regista, sono il fungo, io mi sposto. Non puoi, sei un fungo. Regista, l'alce mi morde, fa male. Ma proprio qui doveva fare la pipì, Vattene via, sciò bestiaccia! L'alce mi morde! Bestiaccia incontinente, se solo potessi metterti le mie spore addosso! L'alce mi morde! Resista, ma il salice è diuretico? L'alce mi morde! Ma non c'è un cacciatore in questo bosco, in tutti i boschi c'è un cacciatore! L'alce mi morde! Salice, spostati tu! Non posso, sono un salice! Ma quanti litri ne fa un alce? Sciò, via, via, via! L'alce mi morde! L'alce mi morde! Vattene via, bestiaccia, vattene via! L'alce mi morde! Brutta bestiaccia, vattene! Torniamo in studio, ringraziamo la nostra regista Denise Monas per aver partecipato alla nostra puntata ed essersi prestata a tutte le nostre stupidaggini. Diamo appuntamento ai nostri ascoltatori per la prossima puntata, qui sulle frequenze di Radio Alma. E ci potete trovare sulla pagina Facebook Barbecue, BBQ con la B maiuscola, Q maiuscola, Barbecue Radio Alma. Mi raccomando, così siete sempre aggiornati di tutte le novità. Dove potrete scaricare i podcast, sì, e avere tutte le informazioni. E vedere anche qualche foto per scoprire quello che avviene in studio. Benissimo. E incontrare l'alce, il salice, il fungo. Sì, sicuramente. Mi asciugo. Grazie tante. Buonasera. Buonasera a tutti. Ciao a tutti.